Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La legalità non può essere un insieme di principi sacrosanti ma astratti. Deve essere un ponte fra la responsabilità della singola persona e il ruolo attivo e positivo che giochiamo nella nostra comunità. In assenza di progetti e di proposte concrete, credibili, rischiamo di rassegnarci alle mafie come a un male inevitabile. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'appello, il monito che ha lanciato oggi da Locri Don Ciotti, il presidente dell'associazione Libera, ben conosciuto naturalmente per la sua lotta contro la mafia, che oggi ha organizzato l'associazione Libera a Locri, appunto in Calabria, la marcia contro le mafie in occasione della giornata della memoria in ricordo appunto delle vittime delle mafie. Questo il suo appello. Sapete che nei giorni scorsi a Locri erano apparse delle scritte sopra l'articolo Vescovado, meno sbirri più lavoro, e poi Don Ciotti sbirro, e questa è stata la reazione oggi, migliaia e migliaia di persone che sono arrivate da tutta Italia. Ci occuperemo di questo, ma parleremo anche di politica italiana con i sondaggi che imperversano sia per quanto riguarda il PD, le prossime primarie del 30 aprile, sia per quanto riguarda i partiti in Italia, e parrebbe che il Movimento 5 Stelle, secondo il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, non sia mai stato così alto nei consensi, mentre c'è una leggera flessione per il PD, e quindi anche lì sono scattate le polemiche interne al partito. Ne parleremo, entreremo più nel dettaglio, e poi ci occuperemo anche di questo nuovo bando antiterrorismo voluto da Trump, che prevede lo stop sui voli che arrivano dai paesi arabi di PC e tablet. Cioè non si può portare nessun apparecchio elettronico più grande di un cellulare, perché è per una questione di sicurezza. Lo segue in questo anche la Gran Bretagna, ci sta pensando il Canada e forse anche la Francia. Non sono stati dati spiegazioni, dettagli chiari sul perché e come potrebbero essere pericolosi. Noi ne parleremo anche con un esperto di difesa, quindi non perdete anche questa sera nessun momento di Effetto Notte. Per voi, per interagire, c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349 238 6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, 349 238 6666. Tanti temi, ma come sempre prima di tutto vi racconto la giornata. Antiterrorismo: Trump mette al bando PC e tablet in cabina sui voli dai paesi arabi. Anche Londra segue l'esempio americano, provvedimento per motivi di sicurezza da Africa e Medio Oriente. Canada e Francia valutano se adottare le stesse misure. La Francia: si dimette il ministro dell'interno Leroux, indagato per contratti alle figlie minorenni, e arriva una nuova tegola per il candidato della destra alle presidenziali Fillon. Mafia: migliaia di persone arrivate da tutta Italia a Locri per il corteo organizzato da Libera in memoria delle vittime. Don Ciotti dice: siamo tutti sbirri. Politica: nei sondaggi il Movimento 5 Stelle sale ancora e consolida il suo primato, in flessione il PD, Renzi primo nei primi congressi del partito, ma è polemica sui dati. I dati Istat: 1 milione di famiglie senza reddito da lavoro e 970.000 a lavorare è solo la donna. Vivendi chiede i danni a Mediaset, campagna diffamatoria mediatica, dicono i francesi. Partiamo quindi dal bando deciso dal presidente americano Trump per paura di attacchi terroristici sugli aerei, paura di attacchi a Washington e Londra. Quindi niente PC, niente iPad in cabina sui voli provenienti da una decina di paesi dall'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Tutte le apparecchiature elettriche più grandi di un cellulare potranno essere trasportate solo nel bagaglio in stiva. La motivazione sarebbe una non meglio precisata minaccia terroristica a 2 giorni dal vertice a Washington della coalizione internazionale anti-ISIS guidata dagli Stati Uniti. Anche il Canada, oltre a Gran Bretagna e Francia, starebbe valutando la possibilità di introdurre restrizioni simili. Ne parleremo, vi dicevo, qui Effetto Notte con il corrispondente dagli Stati Uniti e con un esperto di difesa. E la Francia, con il ministro dell'interno Bruno Leroux, che si è dimesso dal suo incarico nel governo in seguito alle rivelazioni sull'assunzione delle figlie minorenni come collaboratrici in Parlamento. Sembra che in Francia più che in Italia tengano famiglia questi del governo. Il socialista Mattias Fekl prende il suo posto. Nel frattempo l'inchiesta che riguarda il candidato della destra alle presidenziali François Fillon e i presunti impieghi fittizi della sua famiglia non si ferma, questa inchiesta, ma si aggrava dell'accusa di falso e truffa aggravata, perché gli inquirenti hanno acquisito nuovi documenti che lasciano pensare che Fillon abbia potuto produrre dei falsi per giustificare gli stipendi della moglie del candidato della destra alle presidenziali. Lo rivela il quotidiano Le Monde. Fillon è già indagato, tra l'altro, per abuso d'ufficio e appropriazione indebita. E come se non bastasse, poco fa è arrivata la notizia che sempre Fillon avrebbe incassato quasi 50.000 euro per organizzare per conto di un miliardario libanese un incontro con Putin. Adesso in Italia, mafie, migliaia di persone arrivate da tutta Italia oggi a Locri, in Calabria, per il corteo organizzato dall'Associazione Libera di Don Ciotti in memoria delle vittime della mafia. Oggi siamo tutti sbirri, ha detto Don Ciotti, ricorderemo tanti nomi di esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita e nessuno li può etichettare e insultare, ha detto. Sentiamo. Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere e valorizzare quella Calabria, la vostra, lasciatemi dire la nostra. Oggi tutti ci sentiamo calabresi e ci sentiamo sbirri. Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere e valorizzare quella Calabria che non accetta di essere identificata con l'andrangheta o con la massoneria, con la corruzione. C'è un rapporto profondo e antico con questa terra difficile e generosa, una Calabria che vuole il riscatto e il benessere della propria terra. E a questo corteo Locri era presente anche il presidente del Senato Grasso. Siamo sulla politica. Dopo il primo fine settimana di congressi nel Partito Democratico, Renzi sarebbe, secondo i sondaggi, al 55%, Orlando al 42,6%, ma è polemica interna dopo il sondaggio Ipsos che darebbe 5 punti di vantaggio al Movimento 5 Stelle se si votasse oggi. Quindi un Movimento 5 Stelle al massimo del suo consenso. Poi tra poco scenderemo nel dettaglio di questi dati. Parliamo adesso intanto di lavoro e famiglia. L'Istat aggiorna le tabelle, ma da un anno all'altro non ci sono cambiamenti. C'è 1 milione di famiglie in cui nessuno porta lo stipendio a casa e un altro milione in cui a portarlo è solo la donna. È la fotografia scattata dall'Istat per il 2016. I nuclei familiari senza reddito da lavoro sono soprattutto al sud, oltre la metà, e rispetto allo scorso anno il numero è rimasto pressoché invariato. Si tratta di famiglie dove tutti i componenti attivi che partecipano al mercato del lavoro sono disoccupati e dove magari ci si arrangia con la pensione del nonno, con una piccola rendita o chissà con qualche lavoretto in nero. C'è poi, come si diceva, un altro 1.970.000 per l'esattezza, dove è solo la donna ad essere occupata part time o a tempo pieno, mentre l'uomo è in cerca di occupazione o inattivo. E ci sono poi altre 192 famiglie genitore dove c'è solo la mamma ed è disoccupata. La cifra è in aumento rispetto all'anno precedente, più 5%. Insomma, un quadro di generale difficoltà nonostante alcuni segnali di ripresa della nostra economia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La Regione Puglia considera lo spostamento degli ulivi illegittima, lo ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano parlando delle tensioni in Salento, dove tra le proteste sono cominciati gli espianti degli ulivi per la realizzazione del tracciato del tunnel del gasdotto TAP. La protesta dei NoTap e dei movimenti, alla quale si sono uniti anche alcuni sindaci dell'area, blocca nel Salento il cantiere del gasdotto TAP. Il blocco è avvenuto al secondo giorno, impedendo così agli operai di proseguire con l'espianto temporaneo degli ulivi nella zona dove sorgerà il microtunnel del gasdotto, espianto cominciato ieri. Un centinaio di persone ha infatti impedito a mezzi e imprese di entrare nell'area di cantiere, nonostante le forze di polizia abbiano forzato per 2 volte il blocco. Alla fine TAP, accettando l'invito del prefetto di Lecce, ha deciso di soprassedere almeno per oggi alla prosecuzione dell'espianto. Gli ulivi da togliere provvisoriamente sono 231 e ieri ne sono stati tolti 33. Da sindaci e Regione Puglia si oppongono per motivi ambientali all'arrivo del gasdotto nel Salento, ma l'opera ha già da tempo tutte le autorizzazioni e la risposta di TAP. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Melendugno, Lecce. Parliamo di Europa. Adesso si sono conclusi positivamente i negoziati per limare il testo della dichiarazione che sarà firmata il 25 marzo al Campidoglio per i 60 anni dei trattati di Roma. È stato raggiunto infatti un compromesso per riavvicinare i paesi dell'est Europa, il cosiddetto gruppo di Visegrad, scettici sulla formula dell'Unione a più velocità. Il testo potrà ora essere firmato da tutti i 27 paesi dell'Unione, anche se resta da superare qualche resistenza greca. Atene ha chiesto rassicurazioni sulla seconda revisione del suo debito pubblico. E siamo di nuovo all'estero, con questa notizia che riguarda la Svezia. Il Parlamento svedese si è riunito per la prima volta da 20 anni a questa parte in sessione ristretta per simulare uno stato di guerra in un contesto di crescenti tensioni con la Russia. La delegazione di guerra è costituita da 50 deputati rappresentanti di tutte le forze politiche parlamentari. Si tratta di un comitato di crisi che in caso di guerra o di minaccia bellica può sostituire temporaneamente il Parlamento. La cronaca con, tornando di nuovo in Italia, dopo le polemiche sul programma Parliamone Sabato per la lista sessista sulle qualità delle donne dell'est, di cui abbiamo parlato molto ieri, e la conseguente chiusura della trasmissione, oggi il direttore generale della RAI, Campodell'Orto, è ritornato sulla vicenda. Io credo che sia avvenuta una cosa che non dovrebbe mai avvenire, ovvero che abbiamo mancato a quella che è la nostra missione. Nel caso specifico, la rappresentazione in modo inaccettabile dell'universo femminile in questo caso. Non è che è mancato un filo rispetto alla catena di controllo. Quello che è stato, l'errore che avete visto tutti, è stato ritenere che il contenuto fosse accettabile. È per questo che io ho rimandato a un tema di ordine culturale, di ordine di aderenza al servizio pubblico. Restiamo sui media come argomento. Vivendi chiede i danni per diffamazione a Mediaset. È stato il giorno del primo incontro in tribunale fra Mediaset e Vivendi, con i francesi chiamati da Mediaset a rispondere del mancato rispetto dell'accordo per l'acquisto di Premium. E come prevedibile è stata subito battaglia senza esclusione di colpi. La prima udienza della causa davanti al tribunale di Milano ha registrato infatti la richiesta di danni da parte di Vivendi nei confronti di Mediaset. Una richiesta di risarcimento danni, di immagine e reputazione in seguito a quella che i francesi hanno definito la campagna mediatica contro il gruppo dopo il mancato rispetto del contratto di cessione di Premium. A questo punto anche Mediaset ha presentato richiesta di danni nei confronti di Vivendi a seguito di alcune interviste del CEO Arnaud de Puyfontaine sulla ricostruzione dei fatti relativi al contratto siglato lo scorso anno tra le due aziende. L'ultima di queste interviste lunedì al Financial Times. Una novità, se vogliamo, è che nel procedimento civile è entrata anche la scalata di Vivendi a Mediaset. Fininvest, infatti, ha dedotto fatti nuovi puntando l'indice contro la presunta violazione dei patti parasociali per la scalata dei francesi di quasi il 30% del gruppo Mediaset, mentre il patto parasociale su Premium prevedeva una partecipazione di Vivendi non oltre il 3,5%. Ora il giudice Vincenzo Peruzziello si è riservato una decisione perché nei casi di diffamazione è previsto un tentativo di mediazione. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Terza seduta consecutiva di forti rialzi per il titolo Sole 24 Ore. Nelle ultime tre sedute sono passate di mano 18 milioni di azioni, pari a circa il 13% del capitale. E adesso parliamo di leopardi, non del poeta, ma proprio dei felini. Il leopardo, pensate, viveva in pianura padana, il cosiddetto leopardo del Po, insieme a specie come il mammut, il cervo magacero, la iena, il rinoceronte di Merke e l'uomo di Neanderthal. È stato infatti pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Quaternary International, un lavoro di cui è coautore Davide Persico del Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma, sull'analisi morfologica di un raro fossile di leopardo rinvenuto fortuitamente nel 2015 nei sedimenti alluvionali del Po. Chi l'avrebbe immaginato, il leopardo che vagava per la pianura padana? Per chiudere il calcio, la telenovela Milan che prosegue il 7 aprile, termine ultimo per la chiusura dell'accordo con i cinesi, si avvicina. Allora, o compaiono nel giro di poche ore, diciamo, termine ultimo giovedì, 100 milioni sul conto corrente di Fininvest, terza rata della caparra, e allora sarà proroga al 7 aprile. Oppure salta tutto il castello di carte cinesi e Berlusconi sarà l'unico uomo al mondo ad aver ricevuto 200 milioni in regalo. Lo scetticismo sulla chiusura effettiva dell'affare regna sempre più sovrana ogni minuto che passa. Certo che se venisse bonificata davvero la terza tranche dell'anticipo e poi non si chiudesse, saremmo oltre i limiti della follia, perché è impossibile riuscire ad immaginare che esista qualcuno cinese, arabo, russo o eschimese che sia disposto ad elargire gli ultimi 100 senza avere già in tasca i 220 che servono per chiudere definitivamente l'affare, più gli 80 milioni della gestione corrente che in caso di closing pagherebbero i cinesi. In caso contrario verrebbero erosi dalla comunque cospicua caparra già in cassa Fininvest. Insomma, lo scenario più probabile in questo preciso momento è che il Milan resterà a Berlusconi con 120 milioni netti in tasca per dipingere il futuro, ma oltre questo limite non arriva nemmeno la nostra fantasia. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che il riassunto della giornata è completato. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice Lucio: nonostante le figuracce sondaggistiche delle europee, della Brexit e della Clinton, avete ancora il coraggio di titolare sui sondaggi? Che c'entra, Lucio? Comunque i sondaggi sono un'attività tradizionale, legittima, non vedo dove sia il problema, quasi in qualsiasi ambito della vita umana e poi in particolare della politica, soprattutto quando ci si avvicina a certe scadenze. No, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Tra poco ve le ricordo le notizie principali. Avete sentito il riassunto della giornata, da non perdere mai puntualmente alle 21, però sapete che ogni tanto poi, se qualcuno dovesse accendere in ritardo, vi ricordo quali sono le notizie in primo piano. Tra poco parleremo della politica italiana, di questi nuovi sondaggi che darebbero il Movimento 5 Stelle come primo partito in assoluto, con bene uno stacco di 5 punti sul PD, e poi anche dati relativamente alle primarie, prossime venture del Partito Democratico. Intanto, per i vostri messaggi, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e per WhatsApp. Dice quest'altro ascoltatore: generalmente dopo questi sondaggi pilotati così favorevoli al Movimento 5 Stelle c'è un'indagine della magistratura in arrivo, forse Palermo. Fa dell'ironia questo ascoltatore, ma adesso andiamo sui fatti seri. Gran Bretagna segue probabilmente gli Stati Uniti, segue gli Stati Uniti e il Canada che ci sta pensando, e così la Francia, per il bando sui voli aerei da paesi arabi a PC e tablet per timore di attacchi terroristici. Poi ne parleremo. Mafie, Italia in piazza per la memoria delle vittime. Locri in Calabria con la marcia di Don Ciotti, fondatore di Libera, che dice: oggi siamo tutti sbirri. E poi per i trattati di Roma è stato trovato un compromesso sulla dichiarazione finale, che si farà il 25 marzo e si firmerà quindi a 27 paesi. Sono andati incontro gli altri paesi a quelli dell'est che erano contrari a un'Europa a più velocità. E poi in Francia, terremoto sul governo perché si dimette il ministro dell'interno per rivelazioni sull'assunzione delle figlie minorenni come collaboratrici al Parlamento, e ancora una tegola sul candidato della destra alle presidenziali francesi Fillon, perché c'è un aggravio, diciamo, dell'inchiesta per falso e truffa aggravata. In più avrebbe preso 50.000 euro per creare un incontro tra il presidente russo Putin e un affarista libanese. E poi in Italia, dati Istat, ancora oltre 1 milione di famiglie sono senza lavoro, e poi in 970.000 nuclei familiari lavora soltanto la donna. Della politica parleremo tra pochissimo, abbiamo detto, e poi questo scontro ulteriore, Mediaset Vivendi, e scontro in tribunale nei prossimi giorni, la decisione del giudice su chi ha diffamato chi. E siamo quindi alla politica italiana, con in particolare i sondaggi. Ecco, partiamo dal sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, nel quale emerge come dato più significativo che i 5 Stelle non sono mai stati così in alto nei consensi, negli orientamenti di voto, perché staccano il PD in questo sondaggio di oltre 5 punti. Dopo mesi, insomma, di sostanziale stabilità, diciamo, questo sondaggio pubblicato dal Corriere registra due principali cambiamenti: la flessione del Partito Democratico a seguito probabilmente della scissione interna e della nascita del Movimento dei Democratici Progressisti, e poi dall'altra parte la crescita del Movimento 5 Stelle, che consolida il suo primato. Quindi, andando proprio sui numeri, secondo questo sondaggio il Movimento 5 Stelle arriva al suo dato più alto con il 32,3%, quindi in aumento dell'1,4% rispetto al mese precedente, mentre il PD con il 26,8% è in flessione di oltre 3 punti. Poi ci sono più o meno allo stesso livello la Lega e Forza Italia: Lega con 12,8%, Forza Italia 12,7%, poi seguono Fratelli d'Italia 4,6%, Movimento dei Democratici e Progressisti 3,3%, Nuovo Centrodestra 2,8%, Sinistra Italiana 2,7%. Quindi c'è uno scenario tripolare Evidentemente Betta Fiorito, in diretta da Roma, la nostra Betta. Ciao Betta. Ciao Roby. C'è uno scenario, sì, tripolare, ma dove c'è un certo stacco, almeno da questo sondaggio, del Movimento 5 Stelle sul PD. Allora, tutto questo va preso sempre con le molle, certo, perché le elezioni sono molto lontane, quindi insomma... attualmente il PD sta subendo la botta così della scissione, no? Abbiamo questo 26, qualcosa, insomma, un dato un pochino più deludente, mentre il Movimento 5 Stelle è al 32%. In tutto questo si inserisce però il congresso del Partito Democratico, che è un evento che non va sottovalutato a livello mediatico proprio, per cui adesso si inizia a vedere qualche risultato di alcuni seggi, stiamo parlando dello 0,35%, quindi molto poco. Quindi alcuni però, circoli dove già si è sì, funzionato. Alcuni circoli, ma calcola che le votazioni ci saranno il prossimo weekend e quello dopo. Però intanto già c'è un segnale. Il primo segnale è il fatto che Emiliano sta al 2,4, insomma molto basso, mentre Matteo Renzi sta al 55, ma c'è il boom di Andrea Orlando che sta al 42 qualcosa, quindi insomma c'è una competizione, no, che renderà poi anche mediaticamente interessante questo congresso. E dopo il congresso del Partito Democratico bisogna capire che cosa succede poi nei sondaggi, perché generalmente sono anche da traino. L'altra cosa è che il Movimento 5 Stelle tiene, ed è importante dirlo, malgrado il disastro romano che è sotto gli occhi di tutti, Virginia Raggi che va in settimana bianca con il figlio in un momento insomma un po' delicato in cui bisogna approvare bilanci, cose eccetera, e malgrado l'impasse in caso Genova, no? Dove c'è la candidata che è stata poi levata da Beppe Grillo, ha detto no, ci mettiamo quest'altro. In realtà le due cose sono collegate, cioè il Movimento 5 Stelle, soprattutto Beppe Grillo, si sono resi conto che i candidati poi vanno scelti dalla leadership, quindi come in ogni partito se c'è un candidato che non è particolarmente in linea, no, con quello che potrebbe essere il Movimento 5 Stelle, ma questo si può dire di tutti i partiti, è chiaro che a un certo punto interviene il garante e dice no, aspettate un attimo, vediamo che cosa succede, è meglio un altro candidato. Il problema è un altro, che il momento che si è dichiarato che bisognava fare tutto online, che uno valeva uno, che poi le persone erano libere, che la rete decideva, invece a un certo punto la rete non decide più, ed è per questo che poi il Partito Democratico attacca il Movimento 5 Stelle dicendo che non c'è democrazia, è una dittatura. In realtà, ora, parlare di dittatura mi sembra un pochino esagerato. Bisogna però dire che la questione vera è che comunque c'è una leadership che decide, e questa leadership è affidata a Beppe Grillo e a Davide Casaleggio. E lui ha detto d'altronde, ha detto ieri, chi non ci sta può fondare un altro partito. Senti, Betta, ci sono poi... Difficile farla arrivare però al 32,3%, Roberto. A proposito della percentuale di questo sondaggio di oggi, Paolo, ti leggo due messaggi contrastanti. Paolo da Bologna dice, per me sono tutti sondaggi pilotati, come ha già detto un altro radioascoltatore, secondo me i 5 Stelle non sono al 35%, in realtà qui risultano al 32,3%, ma dice molto di più e se lo meritano, Paolo da Bologna. Mentre un altro ascoltatore scrive, vi prego non dite che 5 Stelle è il primo partito, non ci credo. Vabbè, al di là che i sondaggi, abbiamo detto, restano sondaggi, però bisogna dire, Betta, che stando così le cose, se dovessero stare così, questo sondaggio fa emergere anche il fatto che nessuno arriverebbe al famoso 40%, quindi per il premio di lista, no? Se si andasse alle elezioni. Questo è sicuro. Il problema è un altro. Con chi si allea il Movimento 5 Stelle qualora il Movimento 5 Stelle dovesse vincere le elezioni, e questo è il grande question mark della politica italiana oggi. Se vince il Partito Democratico, noi sappiamo che il Partito Democratico si dovrà alleare con democratici e progressisti, e quindi metti caso che Matteo Renzi diventi di nuovo il segretario, dovrà vedersela con il suo odiato D'Alema. Però noi sappiamo qual è l'alleanza, lo stesso dicasi del centrodestra. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è inutile illudersi, è difficile che una forza politica possa arrivare al 40%. Quindi ci sarà un'alleanza. Questa alleanza si diceva che doveva essere con la Lega. In realtà Beppe Grillo ieri ha detto che la Lega ha votato per la decadenza, contro la decadenza di Augusto Minzolini, quindi loro stanno nel palazzo, quindi loro sono servi del potere, quindi. E questo fa presagire che questa alleanza postuma alle elezioni possa invece non essere così tanto certa. Anche se a me sembrerebbe incongruente comunque un Movimento 5 Stelle con la Lega. Senti, in ci chiusura, sono delle cose che sono simili, no? L'anti-europeismo, l'anti-euro, insomma gli anti-immigrati, ci sono delle cose che possono essere simili anche se sono molto poi di movimenti molto diversi. Betta, proprio in chiusura, accenno anche al centro e al centrodestra. Allora, Alfano intanto domenica, il leader del nuovo centrodestra, alleato di questo del PD al governo, ha creato, dato vita ad Alternativa Popolare, perché vorrebbe federare un po' tutte le diverse formazioni del centro. Poi bisogna vedere se riesce a strappare Forza Italia alla Lega, che ancora non ha deciso Forza Italia dove andare. E poi, per quanto riguarda il centrodestra, che è un'area che supererebbe il 30%, no? Di, secondo il sondaggio, è comunque in fase di stallo. Ecco, giusto per chiudere il quadro, perché sì, però si stanno accordando, Si stanno accordando, ci sono. Allora, io penso che il Movimento 5 Stelle è in questo momento un'anomalia, no, del sistema italiano, perché non è un vero partito. Cioè, se si dovesse ricostruire veramente il centrodestra con un leader però capace di trascinare, forse Zaia poteva esserlo di più in questo. Berlusconi aveva visto lungo di quanto potesse essere Salvino, Salvini. Io penso che se ci fosse un leader, una leadership forte del centrodestra, con uno Zaia, con qualcuno di diverso da Salvini, allora sicuramente questo terzo polo potrebbe risorgere. E ricordiamo, gli italiani sono un po' conservatori, quindi non è detto che il centrodestra sia morto. Attenzione a non dare per morto il centrodestra. No, chi mai lo darebbe? Grazie Betta Fiorito, grazie da Roma. Grazie a voi. Ciao. Intanto vedo che ha dei problemi la pagina Facebook di Effetto Notte stasera, una roba inaccettabile. Boh, ci sono dei vuoti, non capisco ogni tanto, insomma, la tecnologia. Poi di tecnologia parleremo, nel senso, perché fa così paura a Trump e quindi anche alla Gran Bretagna e altri paesi che hanno deciso, soprattutto Trump, questo bando che ha lanciato, che dovrà essere rispettato entro le prossime 96 ore, il bando a PC e tablet sui voli aerei che partono dai paesi arabi. Ne parleremo tra pochissimo. Pagina Facebook di Effetto Notte, che per ora è un po' bloccata, pure il numero 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato allora degli ultimi sondaggi sulla politica italiana, con questo stacco di 5 punti del Movimento 5 Stelle sul PD, secondo il sondaggio Ipsos, e poi anche dei possibili risultati alle primarie del 30 aprile all'interno del Partito Democratico. Per ora, appunto, stiamo parlando di sondaggi. Adesso invece ci trasferiamo negli Stati Uniti tra pochi istanti, mentre vedo Di Maio a Di Martedì sulla 7. Vogliamo sentire cosa sta dicendo? Di Maio del Movimento? Perché la legge prevede che il Senato decida. Semplicemente una formalità. Il Senato deve votare prendendo atto di una sentenza Minzolini, della magistratura che interdice quella persona dai pubblici uffici. Che cosa significa? Che Minzolini oggi, quando si voterà le amministrative, per esempio a giugno, se nel suo comune si dovesse andare a votare, lui non ha la possibilità di votare alle elezioni amministrative, regionali, parlamentari. Però può votare le leggi in Parlamento che riguardano milioni di italiani. E questo è vergognoso, perché il Senato della Repubblica, con l'aiuto del Partito Democratico, ha salvato una persona dalla decadenza e dall'interdizione dei pubblici uffici. Adesso sapete le polemiche del Movimento 5 Stelle rispetto al fatto che 19 voti del PD abbiano aiutato il resto del Senato a salvare Augusto Minzolini dalla decadenza in base alla legge Severino. Adesso però ci occuperemo, vi dicevo, di Stati Uniti. Vi ricordo velocemente, prima, che potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 le vostre osservazioni, e ora i titoli principali. Antiterrorismo, Trump mette al bando PC e tablet in cabina sui voli dai paesi arabi, anche Londra segue l'esempio americano, provvedimento per motivi di sicurezza da Africa e Medio Oriente, Canada e Francia valutano se adottare le stesse misure. Francia, si dimette il ministro dell'interno Leroux, indagato per contratti alle figlie minorenni, arriva una nuova tegola per il candidato della destra alle presidenziali Fillon. Mafia, migliaia di persone arrivate da tutta Italia, a Locri in Calabria per il corteo organizzato da Libera in memoria delle vittime, Don Ciotti dice siamo tutti sbirri. Politica, nei sondaggi il Movimento 5 Stelle sale ancora e consolida il suo primato, inflessione il PD, Renzi primo nei primi congressi del partito, ma è polemica sui dati. Istat, 1 milione di famiglie senza reddito da lavoro e 970.000 a lavorare solo la donna. Vivendi chiede i danni a Mediaset, campagna diffamatoria mediatica, dicono i francesi. Allora, dicevamo di queste controverse misure antiterrorismo decise dal presidente americano Donald Trump, un bando che da oggi vieta PC e tablet in cabina sui voli dai paesi arabi, autorizzando il trasporto di questi apparecchi elettronici soltanto in stiva, insomma, di portarli in stiva. Interessa più o meno 10 aeroporti di 8 paesi a maggioranza musulmana, i passeggeri potranno portare con sé solo i cellulari e le apparecchiature mediche. Gli scali colpiti sono, ma tra poco ci aggiornerà il nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti, Amman, Kuwait City, Cairo, Istanbul, Riyadh, Jeddah, Casablanca, Doha, Dubai e Abu Dhabi. Il provvedimento avrà un impatto su circa 50 voli al giorno. Trump ha detto, da quando ha deciso questo bando, le compagnie aeree avranno 96 ore di tempo per rendere operativo il divieto, e adesso anche la Gran Bretagna ha deciso di seguire gli Stati Uniti in questa decisione. Il Canada ci sta pensando, e il motivo qual è? Per motivi di sicurezza, anche se non sono scesi troppo nel dettaglio. Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao, buonasera a voi. Quindi sì, motivi di sicurezza. Sì, sì. Motivi di sicurezza, però mi sembra che la Casa Bianca non sia scesa nei dettagli, no? A questo proposito. No, nessuno è sceso in troppi dettagli. Hanno ribadito fondamentalmente che ci sono valutazioni di intelligence che stabiliscono che continua a esserci un rischio che gruppi terroristici aggirino le attuali misure di sicurezza, gli attuali controlli agli aeroporti e sulle linee aeree, e quindi come precauzione scatta questo divieto alle apparecchiature elettroniche, ai gadget elettronici di dimensioni più grandi, come ricordavi tu, soprattutto laptop, tablet, DVD player e anche macchine fotografiche digitali. È un provvedimento che fa sicuramente discutere, perché la sua efficacia rimane dubbia, e appunto le ragioni di intelligence alle spalle della decisione, l'allarme, diciamo, terrorismo, non è stato specificato, precisato in dettaglio. Ma in questo caso raccoglie il consenso anche dell'opposizione democratica, almeno negli Stati Uniti. Il deputato senior nella commissione di intelligence della Camera, Adam Schiff, non certamente tenero con l'amministrazione in questi tempi, ha preso posizione oggi dicendo che la misura è sicuramente appropriata e adeguata al tipo di minaccia presente. Quindi Marco, confermi che sono circa 8 paesi, leggevo poi 14 compagnie aeree, di cui 6 basate, esatto, in Stati Uniti e Gran Bretagna. Ho visto che esatto, però sono, sì, diciamo, ci sono 8, ci sono, diciamo, 9 compagnie aeree internazionali che sono state, diciamo, che sono oggetto di questo provvedimento per quanto riguarda gli Stati Uniti. Non ci sono compagnie statunitensi, perché le compagnie statunitensi non hanno voli diretti dal Medio Oriente. L'unico collegamento diretto è quello con Israele. Israele non è naturalmente tra i paesi coinvolti. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, invece, sono 14 compagnie aeree, di cui 8 internazionali e 6 basate in Gran Bretagna. Marco, per chiudere, la Turchia è fra il primo paese che ha annunciato che chiederà agli Stati Uniti di revocare questo bando, è quella, l'unico paese al momento che ha protestato, sì, almeno così ufficialmente. Sì, esatto, la protesta, la prima protesta ufficiale per il momento unica è arrivata alla Turchia, che ha detto, il ministro dei trasporti ha detto che il bando andrebbe quantomeno ammorbidito. Ed è comunque sbagliato. Sicuramente questo creerà problemi soprattutto ai così al viaggi di business, agli uomini d'affari, per i collegamenti con soprattutto con le grandi città capitali dell'economia del Golfo Persico. Parliamo di Dubai, parliamo di Abu Dhabi, parliamo degli Emirati Arabi Uniti. Quindi ecco, questi paesi che, oltre diciamo che a essere alleati politici degli Stati Uniti, sono anche paesi con strettissimi legami economici, e qui diciamo, e compagnie aeree diciamo di grande peso, quali sono Etihad e la Emirates, che vengono diciamo così colpite da queste nuove misure di sicurezza. Quindi diciamo, problemi ci saranno sicuramente. Al momento però l'unica protesta ufficiale da parte di un paese coinvolto è stata quella della Turchia. Grazie intanto Marco Valsani e buon lavoro da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Adesso invece vorrei chiedere a Andrea Margelletti, che è presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, ed esperto di difesa. Buonasera Andrea. Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a te della disponibilità, Andrea. Come possiamo spiegare il rischio che possono comportare dei PC o dei tablet a bordo di un aereo in cabina? Non è la prima volta che gruppi jihadistici cercano di fare esplodere aerei in volo. Da nazioni come fece Gheddafi con l'aereo che esplose sopra la cittadina di Lockerbie, fino al piano Bojinka pensato da Khaled Sheikh Mohammed, che poi fu lo stratega che portò all'operazione dell'11 settembre, fino all'11 settembre, a Richard Reid, quello che ricordato anche lo show bomber, quello che aveva l'esplosivo delle bombe, ma allo yemenita che aveva l'esplosivo negli indumenti intimi. Insomma, cercano, gli aerei sono un obiettivo altamente pagante. E più recentemente, pochi anni fa, e sicuramente i tuoi ascoltatori lo ricordano benissimo, perché le scarpe ce le togliamo per fare i controlli per Richard Reid, ma altrettanto non possiamo portare a bordo liquidi più di una certa quantità, perché la CIA e l'MI6, il servizio inglese, scoprirono proprio da parte di cellule terroristiche situate in Gran Bretagna il piano di mischiare liquidi a bordo, portandoli con bottigliette apparentemente innocue, ma all'interno dei quali venivano portate sostanze che poi avrebbero detonato in volo. Quindi gli aerei sono uno degli obiettivi più importanti e più paganti, perché ovviamente hanno un eco mediatico straordinario. Evidentemente c'è stato da parte dei servizi occidentali, o su segnalazione dei servizi collegati, un avviso sul fatto che c'è un piano in atto, non in atto, c'è un piano in essere per far sì che tablet o PC vengano mascherati per quello che sono, invece in realtà essere trasformati in bombe. Quindi c'è la possibilità, evidentemente, dici che sarà arrivato un rapporto, una segnalazione dai servizi segreti, e tecnicamente il rischio sarebbe costituito dal fatto che dentro a questi computer, a questi PC, a questi tablet si possono inserire degli esplosivi. Sagomati degli esplosivi, sagomati ad esempio come se fossero componenti di un computer, quindi se passano sotto la Bendix, la macchina a raggi X, non si vedono, e quindi naturalmente questa deve essere una segnalazione estrema. Per fare una cosa del genere vuol dire che la minaccia era reale e concreta, perché altrimenti queste cose non si fanno. Quindi la trovi. Ho citato due esempi per tutti: le scarpe, ed era Richard Reid che cercò di far esplodere l'esplosivo mantenuto tenuto nelle sue scarpe, e lo yemenita che aveva l'esplosivo negli indumenti intimi, e quindi queste sono e naturalmente il complotto che riguardava gruppi jihadistici residenti in Gran Bretagna, che è quello che poi sappiamo delle nostre bottigliette che non possiamo portare a bordo. Tutte queste cose sono state poi frutto di operazioni molto complesse, di arresti e che hanno bloccato importanti atti terroristici. Per fare una cosa del genere, ripeto, molto probabilmente la minaccia era concreta e reale. Quindi dice misure prese in base a un rischio fondato. Grazie, grazie Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali ed esperto di difesa. Grazie, buona serata. Allora direi che adesso possiamo aggiornare chi sta viaggiando mentre proseguono i vostri messaggi. Dice Lucio: cara Roberta, dal 4 dicembre credo sinceramente che l'Italia si meriti davvero la bancarotta inevitabilmente, proprio quando alla guida avremo messo un comico da bar che ha fallito ogni sua avventura imprenditoriale ma che ha guadagnato milioni di lire a palate. Va bene, ci sentiamo tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie tante, finora ne abbiamo parlato, abbiamo appena parlato di questo bando deciso da Trump negli Stati Uniti e che poi ha trovato anche l'accordo della Gran Bretagna, il bando a PC e tablet su i voli che arrivano da almeno una decina di paesi arabi, e ci ha spiegato l'esperto di difesa Margelletti per quale motivo possono essere effettivamente dei dispositivi pericolosi a bordo di un aereo. Adesso però vi ricordo velocemente quali sono i fatti principali, che sono appunto questo: Gran Bretagna che segue gli Stati Uniti in questo bando sui voli dai paesi arabi per timore di attacchi terroristici, anche il Canada valuta questa decisione, forse anche la Francia. Poi mafie, Italia in piazza per la memoria delle vittime, a Locri in Calabria Don Ciotti, che ha organizzato questo corteo con migliaia di persone, lui fondatore di Libera, ha detto oggi siamo tutti sbirri, tra poco ne parleremo. E poi per i trattati di Roma, sapete che il 25 marzo c'è il 60° anniversario dei trattati di Roma che hanno dato poi vita man mano all'Unione Europea, hanno trovato un compromesso sulla dichiarazione che sarà firmata a 27 il 25 marzo. Francia, terremoto nel governo con il primo ministro il ministro dell'interno che si dimette perché su presunti impieghi a due figlie minorenni come collaboratrici in Parlamento, le aveva fatte risultare, e ancora guai per Fillon, si aggrava l'inchiesta a suo carico con l'accusa di falso e truffa aggravata. E poi per quanto riguarda l'Italia, il lavoro, le famiglie, ancora oltre 1 milione di famiglie sono senza lavoro secondo i dati Istat, e in 970.000 nuclei familiari lavora soltanto la donna. Europa, 60 anni dal sogno alla crisi. Sabato a Roma sarà tempo di bilanci e di rilanci per l'Unione Europea, che celebra i suoi 60 anni. Come dicevamo, non sono più 6 ma 28 i paesi che oggi la compongono, molte le sfide vinte, altre perse, tra queste la strada che ha portato l'Europa all'unità post-bellica, al sogno di una difesa comune, come ci racconta Alessandra Schepisi. Era lontano 1985 quando a Schengen, piccola località del Lussemburgo, venne firmato il trattato che diede il via alla libera circolazione delle persone, uno spazio senza frontiere tra territori dove decenni prima si erano combattute sanguinose guerre, il sogno dell'Europa postbellica, un principio cardine dell'Europa unita, uno spazio che negli ultimi anni è stato però al centro di forti polemiche e ripensamenti, soprattutto a causa del massiccio afflusso di immigrati che cercano di entrare in Europa. 4 paesi, tra cui Germania, hanno temporaneamente ripristinato le loro frontiere, mentre sono 6 paesi che non aderiscono alla convenzione o che non l'hanno ancora applicata. Insomma, un chiaro caso di Europa a geometria variabile o a più velocità. E anche sulla difesa comune, altra faccia della stessa medaglia, perché condizione affinché Schengen possa davvero funzionare, vince il compromesso al ribasso. Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto di Politica Internazionale ISPI. Il 6 marzo, un po' passato sotto traccia, si sarebbe trovato una nuova un nuovo modo per cooperare in maniera rafforzata tra alcuni paesi. Quindi c'è già un'idea di diversa velocità di cui si parla molto. Si diceva facciamo un comando comune tra paesi europei che ci stanno, cerchiamo di fare un comando comune per le missioni militari. In realtà da qui di nuovo il compromesso si fa sempre al ribasso. In questo caso il comando comune non c'è. Pensate che addirittura il servizio relazione esterna europea che dovrebbe tenere in mano questo comando comune non ha neanche un comandante, ma soltanto un direttore amministrativo che si occuperà di gestire delle missioni solo di addestramento. Una strada costellata di compromessi e rinunce, dunque, quella che porta a Roma, dove sabato si celebreranno i 60 anni dell'Unione Europea. Cosa aspettarsi allora da questo importante appuntamento? Dal punto di vista della difesa, sinceramente, pochi passi avanti. Probabilmente si farà una dichiarazione congiunta tra tutti i paesi dicendo questo è l'obiettivo che vogliamo avere, possiamo cooperare anche sulla difesa, però ricordiamoci che non è il fatto che il Regno Unito se ne vada che renderà la possibilità di cooperare sulla difesa più facile. Si poteva fare già prima e non si faceva perché non c'era consenso politico tra paesi. Giuseppe Letizia, Calogero Cangelosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Tasquieri, Vito Dorangricchia, Carlo Guarino. Vito Guarino, Francesco Golino. Queste alcune delle vittime delle mafie. Oggi questo elenco è stato fatto, una giornata della memoria per le vittime delle mafie, appunto. Migliaia di persone arrivate da tutta Italia a Locri in Calabria, questo corteo organizzato dall'Associazione Libera di Don Ciotti. Ne parliamo con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Quindi è stata una forte reazione, è una giornata che si celebra da qualche anno, però c'è stata una forte reazione anche a quello che è successo ieri, no, a Locri in Calabria. È stata una manifestazione particolare quella di quest'anno, era la 22esima giornata della memoria e dell'impegno, però quest'anno innanzitutto per la prima volta è stato celebrato per il volere della legge, cioè è stata approvata una legge che stabilisce che il 21 marzo, il primo giorno di primavera, come ha voluto Libera, vengano ricordate le vittime di mafia, 950, un numero impressionante da fine 800 fino ai giorni nostri, quasi gli abitanti di un piccolo paese sono stati ammazzati da tutte le mafie in più di un secolo. E poi quella di quest'anno è stata una manifestazione molto sentita e molto particolare anche per quello che ricordavi, perché i 25.000 di Locri e tutti gli altri, il mezzo milione in tutte le manifestazioni sparse per l'Italia, ha voluto particolarmente stringersi in un abbraccio solidale con Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, per reazione anche a quelle provocazioni di quelle liste e di quelle scritte apparse sui muri di Locri che dicevano più lavoro, meno sbirri, Don Ciotti sbirro. Scritte che tutti hanno considerato come l'ultima truffa dell''ndrangheta, che voleva far passare il messaggio che appunto sia l''ndrangheta a dare lavoro e non il contrario. Raffaella, a questo proposito, perdonami, vogliamo sentire questo passaggio di Don Ciotti proprio sugli sbirri? Sentiamolo. Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere e valorizzare quella Calabria, la vostra, lasciatemi dire la nostra. Oggi tutti ci sentiamo calabresi e ci sentiamo sbirri. L'abbiamo sentito, no, Raffaella? Sì, tutti siamo calabresi e tutti siamo sbirri perché, appunto, come a dire, servitori dello Stato. È stato un passaggio importante questo, perché Don Ciotti da una parte nel suo lungo e appassionato, come sempre, intervento ha voluto ricordare alla politica tutte le cose che è necessario fare, perché va bene la partecipazione sentita a queste manifestazioni, ma poi ci sono gli impegni concreti per dare una risposta ai tanti giovani, soprattutto calabresi, che erano lì e che vedono un'alternativa all''ndrangheta, e queste risposte sono appunto il lavoro, ma il lavoro vero, non il lavoro, diciamo, che l''ndrangheta pensa di voler procurare. E dall'altra parte le sono risposte più tecniche, come l'approvazione del codice antimafia per la gestione dei beni confiscati, e poi ancora le norme sugli appalti, e poi soprattutto appunto la creazione di una alternativa, di una proposta concreta per questi ragazzi. Questo è un po' il senso forte di questo messaggio che Don Ciotti ha voluto dare, per dire siamo con una Calabria nuova, quella che non vuole identificarsi con l''ndrangheta né con la massoneria. Un passaggio importante questo, perché sono in corso da parte della Commissione Antimafia delle ispezioni soprattutto sulla Calabria, sul rapporto stretto emerso in molte indagini tra cosche di 'ndrangheta e massoneria. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Allora noi ci lasciamo e poi, lo sapete, ci aggiorniamo poi brevemente alle 22.